parlarvi di Kasturba, vorrei darvi un attimo un quadro di che cosa è successo in India al tempo di Gandhi, perché come al solito la storia ufficiale la racconta a modo suo, cioè la storia ufficiale ci ha detto, se noi pensiamo a Gandhi, a chi pensiamo? Pensiamo all'uomo che con la non violenza ha liberato l'India. Questo è falso, non è così. Gandhi non ha liberato l'India, gliel'hanno lasciato fare semplicemente perché hanno cambiato sistema. Invece di tenerli sotto un tipo di influenza politica, hanno fatto finta di liberare l'India, ma l'influenza economica persiste tuttora. L'India non è affatto libera, quantomeno non l'India di Gandhi, non l'India che voleva Gandhi. Gandhi voleva che l'India ritornasse, fosse una federazione di comunità rurali, come quelle che ci aveva raccontato Rosa Luxemburg. Vi ricordate quando abbiamo parlato di Rosa Luxemburg? Lei descriveva cos'era l'India prima dell'arrivo dei colonialisti. Diceva che erano delle comunità basate sull'economia e sul diritto naturale, autosufficienti non solo in India ma dappertutto, in tutto il mondo, e che il colonialismo praticamente ha trasformato l'economia naturale in economia commerciale e poi in capitalismo. Questo è stato fatto in tutto il mondo, non soltanto in India. Che cosa voleva Gandhi? Voleva, cacciando gli inglesi, praticamente, che l'India tornasse libera economicamente, oltre che politicamente. Ma gli inglesi probabilmente avevano un progetto. Io ho letto diverse cose sull'India, scritte dagli inglesi e anche scritte dai francesi, quindi ovviamente la storia della liberazione dell'India, come ce la rifilano gli inglesi, è una cosa, come ce la rifilano i francesi è un'altra cosa. Si tratta di mettere insieme le due cose e di ragionarci un attimo su. Io ci ho ragionato un attimo su e mi sono fatta quest'idea. Mi sono fatta l'idea che a Gandhi hanno fatto credere che l'Inghilterra fosse che l'India fosse liberato, fosse sul punto di essere liberata, perché gli inglesi avevano un progetto. Il progetto era quello di sostenere la formazione del Pakistan. Che cos'è il Pakistan? È l'India dei musulmani, ossia mentre Gandhi ribadiva che l'India doveva tornare ad essere una federazione di comunità rurali, esisteva un altro personaggio che si chiamava Mohammed Jinnah, che era musulmano, era ugualmente indiano ma era musulmano, che aveva il sogno di creare un'India solo dei musulmani. Quindi l'idea di dividere l'India degli indù dall'India dei musulmani non è mai stata di Gandhi. Gandhi non lo voleva perché aveva presagito che sarebbe stato un bagno di sangue, come in effetti è stato, perché quando hanno cominciato a spartirsi le cose tra India e Pakistan sono cominciati gli scontri e se le sono date di santa ragione. Ma Jinnah invece, che era un indiano musulmano e voleva fortemente fare il Pakistan, a parte le sue idee nazionaliste, chi aveva dietro che lo sovillava? Aveva dietro proprio gli inglesi. Perché? Perché al Pakistan, se voi guardate sulla cartina geografica, il Pakistan che cosa possiede? Possiede tutta la parte est e tutta la parte ovest della penisola indiana, ossia i porti. Lo sbocco sul mare che per poter creare il suo Pakistan, cioè la sua India musulmana, Jinnah, primo presidente del Pakistan, ha promesso agli inglesi di non dare l'accesso ai porti alla Russia. Ecco perché gli inglesi hanno permesso, pur sapendo che cosa aveva in mente Jinnah, pur conoscendo che razza di personaggio era, perché Jinnah non aveva mai fatto mistero di quanto fosse intenzionato a combattere e ad arrivare al sangue pur di avere il Pakistan. Quindi tutti quanti sapevano che sarebbe successo, che Gandhi aveva ragione a temere questa eventualità, tant'è vero che Gandhi aveva detto, se conoscete un po' la storia, Gandhi aveva detto: piuttosto che dividerci, facciamo presiedere il congresso un anno agli indù e un anno ai musulmani e facciamo cominciare i musulmani, che non possano dire che siccome gli indù sono più numerosi in India siano una categoria privilegiata. Di fatto, fino a che non ci sono stati gli inglesi in India, questo problema non si è mai verificato. Sono stati gli inglesi a portare ossia i colonialisti, perché poi non sono neanche inglesi, cioè chi muove capitali non ha nazionalità, sono gli stessi che stanno facendo casino adesso, sono persone che non hanno radici, che non hanno nazionalità, che non hanno bandiera, che hanno come unico scopo quello di continuare a perpetuare l'accumulazione del capitale, esattamente come ci ha raccontato Rosa Luxemburg, che infatti è stata profetica. Allora, che cosa è successo? È successo che gli inglesi hanno lasciato, tutti si chiedono com'è possibile che abbiano lasciato in vita un uomo che era dichiaratamente guerrafondaio come Jinnah, no? Com'è possibile che quelli che parlano di pace come Kennedy, come Gandhi, come John Lennon vengono ammazzati e quelli che parlano di guerra vengono lasciati in pace, vengono lasciati fare, tant'è vero che Jinnah è riuscito a fare il Pakistan perché gliel'hanno voluto lasciar fare per questi motivi economici, cioè per bloccare l'accesso al mare alla Russia per la questione del petrolio, cioè per fare in modo che la Russia non potesse accedere al mare, ai due pezzi di mare dove oggi sorge il Pakistan. È una nazione assurda perché è divisa, ce n'è un pezzo a sinistra e un pezzo a destra dell'India, quindi è chiaro che è stato fatto esclusivamente con un'idea commerciale, no? Per bloccare l'uscita sul mare del petrolio russo, io credo, poi non sono un economista, mi sono fatta questa idea leggendo tanto. Quindi vi do questo quadro perché è in questo quadro che si muove Kasturba, che è completamente diverso da quello che ci hanno fatto credere. Cioè, Kasturba secondo me non era per niente la donna che seguiva il marito e che si limitava a sostituirlo quando non c'era o quando era in carcere. Secondo me, io ho l'impressione, sento che Kasturba avesse molto chiaro il quadro di quello che stava succedendo, che fosse molto meno idealista di Mohandas, di suo marito, e però nonostante questo, che lei abbia scelto di coadiuvare ugualmente Gandhi, perché a un certo punto non ha avuto scelta, cioè lei doveva diventare un attivista, essendo la moglie di lui, essendo la donna che era diventata, avendo visto quello che aveva visto ed essendosi accorta che le donne la seguivano. Quindi lei a un certo punto è diventata l'icona del movimento di liberazione delle donne indiane. Liberazione che di fatto non c'è stata, ma loro tutti quanti sicuramente hanno fatto la loro parte, hanno fatto del loro meglio. È chiaro che riuscire a vincere quando dietro ci sono questi movimenti di capitale che muovono eserciti, che muovono persone, io credo che sia davvero difficile. Te lo fanno credere, ti fanno credere che ti ottieni qualche cosa, ma di fatto penso un po' alla situazione che c'è adesso. O intervengono veramente delle forze che vanno al di là di quelle umane, oppure credo che agire su larga scala, su così larga scala, sia difficile, e l'unico modo per poter agire sia quello di creare delle piccole realtà fuori dal contesto capitalistico, dal contesto politico, delle realtà autonome, autosufficienti, come quelle che avevano creato inizialmente in Sudafrica Mohandas e Kasturba, e di diventare semplicemente invisibili ai grandi movimenti bancari di capitale e di finanza, perché per riuscire a confrontarsi con questi enormi movimenti macrocosmici, secondo me ci vuole un livello di coscienza globale, planetario. Può darsi anche che arrivi, io me lo auguro, ma ci vuole davvero, ci vorrebbe che tutta l'umanità si risvegliasse e facesse salto quantico tutta insieme. Ora io, se mi guardo intorno, francamente ho poche speranze che riusciamo a fare il salto quantico tutti insieme, però già creare delle bolle comunque di consapevolezza permetterebbe quantomeno a chi è pronto di cambiare, no? Di andarsene fuori dalla dualità, che è il conflitto perenne, cioè non ci si arriva a fare il salto senza fare anche il salto di coscienza. È impossibile, perché si resta dentro nella dualità, quindi nel conflitto. Allora, andiamo con ordine. Kasturba Kapadia si chiamava, nacque nel 1869 a Porbandar, nell'attuale stato del Gujarat. Il padre di Kasturba era amico del padre di Mohandas e i due decisero di fidanzare i loro figli a 7 anni. All'epoca si usava... Ah, che peccato! Va bene, salutala Maria Emilia, dille che ci mancherà. Ida non ha linea. All'epoca si usava fidanzare i bambini e le bambine a 7 anni perché, primo, così si pensava che le bambine non sarebbero state molestate, quindi che si sarebbero mantenute caste pure fino al matrimonio. Secondo, perché tanto le bambine sarebbero poi diventate delle donne, cioè sarebbero comunque passate dalla casa del padre alla casa del marito a servizio, questo era quello. Quindi era tanto meglio che si abituassero fin da subito ad essere già sposate, ad essere già impegnate, perché tanto non avrebbero avuto libertà di fare nulla. Ma con Casturba la cosa è andata un po' diversamente. Quindi praticamente si sono fidanzati a 7 anni, si sono sposati a 13 anni, avevano la stessa età, e Casturba si trasferì nella famiglia del marito, come si usava, di Mohandas, nella famiglia Gandhi, e praticamente cominciò ad aiutare nei lavori domestici insieme alla madre e alle cognate, perché questo era quello che toccava alle bambine. Le bambine rimanevano analfabete mentre i maschi andavano a scuola. Quindi mentre Mohandas andava a scuola, lei faceva la domestica in casa Gandhi insieme alla suocera e alle cognate. Ma Mohandas aveva deciso di fare di sua moglie una moglie ideale. Io, leggendo queste notizie che vi sto dando adesso, le ho lette in inglese, e francamente dall'inglese non sono riuscita a capire quali fossero le motivazioni di Mohandas nel voler insegnare a Casturba a leggere e scrivere, cioè se a lui veramente interessasse che lei fosse sua pari, o se semplicemente lui pensasse di o avesse intuito che un giorno lei avrebbe potuto essergli utile, ma non ha importanza. L'importante è che lui voleva e riuscì, cioè lui le dava lezioni di scrivere e leggere, e fu qui che lei iniziò la sua disobbedienza civile, perché lei la sera, dopo aver lavorato tutto il giorno, era stanca e non ne poteva più e aveva voglia di andarsene a dormire, prima cosa. Seconda cosa, le donne alfabetizzate erano molto rare in India, venivano malviste dalle altre donne, e quindi lei aveva paura che le altre donne della famiglia di Gandhi potessero in qualche modo crearle problemi, rifiutarla, diventarle ostili se lei avesse imparato a scrivere e a leggere. È stato un livello superiore rispetto a loro, quindi lei si limitava a non studiare le lezioni, proprio disobbedienza civile precisa, e dimostrò già a 13 anni di avere un carattere forte, perché mi immagino che il giovane Mohandas dovesse già essere un tipettino niente male quanto a carattere, no? Anche soltanto il fatto che avesse deciso a 13 anni di insegnare alla moglie a scrivere e a leggere ci fa pensare che fosse sicuramente un ragazzino fuori dal comune, ma anche lei, perché altrimenti non credo che avrebbero potuto fare quello che hanno fatto insieme. E come spesso succede, accanto ad ogni grande uomo c'è una grande donna. Non ci sarebbe stato Gandhi senza Casturba. Casturba è stata l'altro suo polmone, l'altro suo ventricolo del cuore, cioè lui non ce l'avrebbe fatta senza di lei, senza la sua forza, il suo coraggio, la sua motivazione. A un certo punto il capofamiglia Gandhi, il padre di Mohandas, muore, e quindi la famiglia rimane senza un introito di denaro. Quindi si decide praticamente che Mohandas debba andare a studiare legge. Prima fa delle altre cose, ma non guadagna abbastanza per mantenere tutta la famiglia, quindi decidono di mandarlo in Inghilterra a studiare legge, a laurearsi, e lui se ne sta via 3 anni, mentre lei intanto a 16 anni rimane incinta una prima volta, ma abortisce. A 19 anni partorisce il primo figlio, e intanto lui è in Inghilterra che studia. Quando torna, è una cosa importante, è che la casta, sapete che in India c'è il sistema delle caste, ed è qualcosa che davvero riesce alle volte a influenzare le azioni delle persone, che pur di non mettersi contro il volere della casta preferiscono non agire, non prendere decisioni. Quindi la casta scomunicò Mohandas, perché non era assolutamente d'accordo che andasse a studiare in Inghilterra, che superasse quello che loro chiamavano l'acqua nera, cioè l'oceano, E quindi scomunicano anche Casturba e il figlio, la moglie e il figlio vengono scomunicati anche loro, quindi Casturba a soli 19 anni comincia a sperimentare che cosa significa essere una reietta, cosa che poi sarà praticamente per tutta la vita, perché lei e Mohandas per tutta la vita si metteranno contro quello che è il sistema dominante, che sia in India che sia in Sudafrica, questo è quello che loro hanno fatto. Per poter, questa è una cosa interessante che ci ricorda anche un'altra grande antenata, vediamo se vi viene in mente la stessa persona che è venuta in mente a me, per poter pagare gli studi di Mohandas in Inghilterra, Casturba vende i suoi gioielli. Quindi l'istruzione di Mohandas viene pagata con i gioielli, con la dote, i gioielli di dote di Casturba. E ecco anche perché dico non ci sarebbe stato Gandhi senza di lei, tanto non avrebbe potuto laurearsi in legge, come prima cosa. Una grande antenata, se vi viene in mente, Nannerl Mozart, perché Mozart poté, il fratello Wolfgang poté viaggiare, dare concerti, farsi conoscere, perché Nannerl era a casa che dava lezioni di pianoforte, a lei non era consentito viaggiare, il padre non glielo permetteva, non le permetteva di comporre, non le permetteva di scrivere musica, le permetteva solo di dare lezioni per poter pagare i viaggi di Wolfgang. Anche se lei era talentuosa quanto lui, forse anche di più, sembra che il primo concerto attribuito a lui in realtà lo avesse scritto lei. Ok. Quindi vissero per 3 anni separati e quando tornò Gandhi lottò per molto tempo per riuscire ad avere un impiego adeguato, ma non trovò mai un lavoro che gli consentisse di mantenere la famiglia come aveva fatto il padre, che era diventato un funzionario governativo. Nel frattempo Casturba, 23 anni, partorisce di nuovo, avranno 4 figli maschi. E fino a che a un certo punto un commerciante musulmano che aveva i suoi affari in Sudafrica chiama Mohandas a difenderlo in una causa commerciale. E Mohandas parte per il Sudafrica e lì si accorge di come venivano trattati, era proprio il destino, le chiamate del destino. Lì si accorge di come venivano chiamati quelli che allora erano, lì erano definiti kafri, cioè gli immigrati indiani che andavano in Sudafrica, e decide di non tornare, decide di fermarsi in Sudafrica e di cominciare lì il suo mandato, la sua missione di riscatto degli indiani. Casturba riceve la lettera del marito che le spiega che vuole fermarsi, che vuole restare lì, che ha trovato qualcosa per cui vale la pena di vivere, qualcosa che lo motiva, che gli fa battere il cuore, e lui rimane in Sudafrica per 3 anni, fino a che a un certo punto Casturba impacchetta figli e bagagli e parte per andare a raggiungerlo in Sudafrica. E lì lei già si trova, ed è una sfida grande per lei, perché si trova a vivere in una situazione completamente diversa da quella che aveva conosciuto, unica donna per il momento, in mezzo a tutti questi uomini. È vero che c'erano il marito e i figli, ma tutti gli altri erano uomini, e lei era l'unica donna, una donna abituata a vivere protetta in una casta, in una famiglia, con delle altre donne. Improvvisamente si trova fuori, quindi probabilmente il fatto che avesse comunque imparato a scrivere e leggere in qualche modo l'ha aiutata ad avere la forza, il coraggio per resistere ad una situazione di stress così grande. Lì comincia ad interessarsi al lavoro del marito, lei, e comincia a sentire il desiderio di aiutarlo. E Gandhi riceveva ospiti, Mohandas riceveva ospiti, erano personaggi politici, personaggi che appartenevano all'elite commerciale, economica sudafricana, e venivano nella sua casa e Casturba era presente, ascoltava, e questo cominciò a cambiare il rapporto tra Mohandas e Casturba, che divennero molto più intimi, molto più amici. Tra 10 minuti finisce la sessione, poi rientriamo subito, rispetto a quello che erano quando erano in India. Cioè Casturba diventa l'aiutante di Mohandas, si rende conto dell'importanza della sua missione e decide di fare anche anche della sua vita la stessa missione. Una cosa che viene raccontata interessante ed è che tra tutte le persone che alloggiavano in casa di Gandhi, un giorno uno dei loro ospiti, un cristiano di tutte le religioni venivano ospitati, un loro ospite cristiano si dimenticò di svuotare il pitale da notte e siccome Gandhi già aveva la mentalità di fare la pulizia anche delle latrine, e pretendeva che Kasturba lo facesse insieme a lui, ma lei ebbe schifo e non voleva svuotare questo pitale di un uomo, no? E quindi si ribellò perché disse: questo è un lavoro da intoccabili, cioè la casta più bassa che c'è in India, gli intoccabili sono quelli che fanno i lavori umili, i lavori della polizia. Lei apparteneva a una casta alta e quindi non voleva fare questo lavoro, si rifiuta e lui ha una reazione molto violenta nei suoi confronti. Io non so se arriva proprio a picchiarla, ma qui nel testo diceva che la strattona praticamente, fa per buttarla fuori dai cancelli della proprietà. E lei si rivolta e gli dice: vergognati di essere violento, dice, essendo tua moglie pensi che debba sopportare le tue manette e i tuoi calci. Io non so se questa frase è stata riportata da qualcuno che l'ha sentita, perché è molto specifica, ma manette e calci sono espressioni pesanti. Ho sentito anche altre testimonianze che dicevano che Gandhi spesso era violento con la moglie, però a me non interessa comunque indagare questo. Sta di fatto che Mohandas si vergognò, le chiese scusa e da quel momento mai più si azzardò ad avere con Kasturba un atteggiamento violento. Dal canto suo lei mai più si rifiutò di pulire la latrina, di fare anche lei il suo turno di pulizia come tutti gli altri. Da quel momento divennero ancora più intimi e si resero conto ancora di più di quanto era importante lavorare insieme per poter portare equità, perché quello che a loro interessava era portare uguaglianza sociale. Perché dall'uguaglianza sociale poi deriva quella economica. Prima di tutto ci deve essere il senso di fratellanza e di sorellanza, neanche di democrazia. Democrazia è una parola brutta che ci continuano a propinare, ma la parola democrazia è nata nell'Atene di Pericle, nell'Atene dei dittatori, nell'Atene dei tiranni, dove per democrazia si intendeva quello, cioè il comando esercitato dai maschi. Dai maschi bianchi, quindi non dalle donne, non dagli schiavi. Le donne non erano considerate ed era una società che contemplava l'utilizzo di schiavi. Quindi immaginatevi come poteva essere una democrazia. Cioè, i demos erano gli uomini che andavano nell'agorà e decidevano e legiferavano. Quindi ogni volta che noi parliamo di democrazia stiamo in realtà utilizzando un termine sbagliato, come quando usiamo la parola economia, la usiamo in un modo sbagliato. Il significato reale in greco di economia, oikos, è il villaggio e nomos è la regolamentazione. Quindi oikos nomos significa la regolamentazione delle risorse del villaggio, della comunità. Non ha niente a che vedere con quello che noi pensiamo oggi, i capitali, le banche, le industrie. Queste sono, è un modo di alterare i termini e di utilizzarli in modo sbagliato, e noi ogni volta che usiamo questi termini stiamo alimentando una forma pensiero che non è quella che crediamo. Quindi prima di tutto ci deve essere la sorellanza, la fratellanza, l'uguaglianza spirituale, poi arriva quella economica. Non è a caso che questo succede in Amor Villa. In Amor Villa c'è veramente una sorellanza. Quando un giorno Amor Villa diventerà un luogo sperimentabile, un luogo abbastanza denso da poter essere sperimentabile con i sensi, davvero allora lì ci sarà un'economia con la K, cioè una ottimale gestione e divisione delle risorse della comunità, dove tutto quello che viene prodotto viene condiviso in base alle necessità di ogni nucleo familiare. Questa è l'economia, quella che aveva in mente Rosa Luxemburg, quella che ho in mente io. Ecco. Hola, l'ho detto. Al quarto figlio, alla nascita del quarto figlio, Mohandas decide di praticare l'astinenza sessuale, anche perché il parto era stato molto molto complicato, l'ultimo, lei aveva quasi perso, aveva quasi lasciato il corpo, e Mohandas non volle utilizzare contraccettivi perché non voleva fare di sua moglie lo strumento della sua lussuria. Questa è una cosa carina, cioè lui pensava, se so di poter accoppiarmi con lei e che lei non rimane incinta, va a finire che io l'ho fatto solo per lussuria, no? Quindi fu lì che nacque il primo nucleo della Satyagra, cioè la loro filosofia di vita, che prevedeva la castità, la verità, l'onestà e l'aiuto reciproco. Quindi cominciarono a dormire in letti separati. Quando la loro comunità, nella loro comunità a un certo punto arrivò la peste bubonica, Kasturba si offrì di aiutare e di andare nelle varie alloggi per spiegare alle donne come fare, come praticare l'igiene, come pulire i giacigli, come pulire le ferite in modo da far sì che la infezione non si diffondesse. Quindi lei, erano tutte indiane le donne che vivevano nella comunità, nella loro prima comunità a Johannesburg. Quindi lei cominciò concretamente, attivamente, cioè una sorta di Florence Nightingale, una sorta di Marie Curie, una sorta di Gabriella Mistral. Lei usciva, andava nelle comunità e si dava da fare concretamente per aiutare le donne, fino a che divenne praticamente la capa delle donne. Le donne la seguivano. Si trasferirono, poi a un certo punto riuscirono, grazie all'aiuto della comunità, ad acquistare 100 acri di terra e si trasferirono in un altro luogo, a Phoenix, sempre comunque in Sudafrica, e crearono un piccolo villaggio tutto quanto di indiani con una dozzina di famiglie indiane. E qui finalmente Kasturba cominciò a sentirsi a casa, cominciò a sentirsi in un luogo stabile. E quando il marito viaggiava per tenere le sue conferenze, i suoi comizi, lei rimaneva nell'insediamento di Phoenix, e probabilmente lei era una sorta di riferimento lì, cioè quando non c'era lui, lei era il riferimento, ci si riferiva a lei per prendere decisioni, per fare gli acquisti, era insomma una sorta di vicepresidente, vicecapo, non so come dire. Vivevano già fin da subito, vissero in un modo molto frugale. Questo fu il desiderio di entrambi, a parte il fatto che Kasturba non aveva più gioielli e vedremo più avanti addirittura accettò di bruciare i suoi sari di seta quando cominciarono in India a manifestare contro le cose importate, faceva parte della disobbedienza civile. Quindi lei, fu lei che disse alle donne indiane che dovevano filare, tessere, prodursi i loro abiti con il loro cotone indiano, in modo da non dover più importare tessuti da fuori, per boicottare le attività. Quindi lei, le attività che non avevano luogo nelle comunità rurali indiane. E lei bruciò i suoi sari, quindi non aveva più gioielli, non aveva più i suoi sari preziosissimi di seta, e accettò e sposò in pieno l'idea di Mohandas di vivere una vita semplice e frugale. Anche perché io credo che siate d'accordo con me, non c'è spiritualità senza frugalità, cioè è impossibile pensare a una vita spirituale nel lusso o nelle eccessive comodità, cioè non dico di stare nella scomodità, nel freddo, ma sicuramente i valori materiali non fanno più parte del cammino spirituale. Ci si rende conto via via che si può fare davvero sempre più o meno delle cose, perché non è più quello di cui abbiamo bisogno. Quello che ci serve realmente non sono, quando abbiamo quel poco davvero, quei 4 abiti e il piatto pieno tutti i giorni, tutto il resto non ci interessa. Lui, Mohandas, viene arrestato una prima volta e condannato a 2 mesi di prigione per le sue attività sediziose, lei decide di supportarlo nutrendosi per tutti e due i mesi fino al suo ritorno a casa delle stesse cose che mangiava lui, quindi porridge di farina di mais insipido, senza sale, senza zucchero, fino a, quindi lei, il suo modo di sostenerlo è questo, di privarsi anche lei del cibo per essere vicina spiritualmente al marito che è in prigione. A un certo punto Gandhi arriva a comprendere di qual è il grande potere che le donne potevano apportare al movimento. Si rese conto che le donne potevano essere leader del suo movimento, della Satyagraha, perché erano coraggiose, erano motivate ed avevano una capacità di leadership naturale assolutamente non violenta, che era quello che voleva lui. Le donne non volevano combattere, non volevano picchiare, non volevano... gli uomini le seguivano nel Satyagraha. Gli uomini seguivano spontaneamente le donne e le donne divennero le ispiratrici del movimento, e Kasturba era l'ispiratrice delle donne, quindi è un po' come se fosse in qualche modo lei stessa ispiratrice di lui. Poi si dice anche che Mohandas fu ispirato durante il suo viaggio in Inghilterra dalle suffragiste, quando le vide, e questa è una cosa che abbiamo detto quando abbiamo parlato di Emmeline Pankhurst e delle sue figlie, vi ricordate? Lui a un certo punto andò in Inghilterra e conobbe il movimento suffragista, sapeva che loro facevano gli scioperi della fame in carcere, e quindi cominciò, anche lui fu lì che Gandhi, che Mohandas ebbe l'idea di fare lo sciopero della fame. Ma accanto a questo, quindi per due volte è stato ispirato dalle donne lui, sia dalle suffragiste inglesi, ma sia anche dalla moglie e dalle donne indiane che seguivano la moglie in maniera assolutamente non violenta, spontanea e naturale. Quindi Kasturba volle unirsi, si unì ufficialmente al movimento della Satyagraha, prima lo faceva solo per seguire il marito, a un certo punto gli chiese di entrare ufficialmente a far parte della militanza. Lui fu titubante perché lei aveva una salute molto cagionevole, specialmente dopo l'ultimo parto, non si era più completamente ripresa, ma lei gli rispose: se puoi andare tu in prigione ci posso andare anch'io, quindi anch'io desidero intraprendere questa strada. E si può dire che il destino l'ha presa in parola, perché finì anche lei in prigione e non le fu risparmiato nessuna delle durezze, diciamo, che furono riservate a tutti gli altri del movimento della Satyagraha. Ma l'ingresso delle donne diede nuova forza al movimento, nuova motivazione, un po' come, se mi è permesso fare questo paragone, un po' come quando Giovanna d'Arco si mise a capo dell'esercito francese, con la sua sola presenza riuscì a cambiare completamente le sorti della Francia, che fino a quel momento le stava prendendo dall'Inghilterra. Con l'arrivo di Giovanna la Francia cominciò a vincere, a stravincere, cioè è incredibile come le donne possano portare, la stessa Boudicca, cioè quante volte nella storia è successo che l'entrata, l'ingresso di una donna che forse porta in sé la manifestazione della Dea, perché la Dea può ispirare le donne. Il Dio, quel Dio di cui ci parlano, che secondo me è un'invenzione umana, perché io credo nella Dea, non riesco a credere in un Dio maschio, io credo nella Dea completa delle due energie, delle due polarità. La Dea partenogenetica, autofecondante e autogenerante. Quindi è chiaro che la Dea può incarnarsi nella donna e ispirarla. No, non riesco a sentire la stessa cosa in versione maschile, ma questa è una mia idea, passatemela, e non sentitevi obbligati a sposare quest'idea che forse è un po' borderline. Ecco, quindi lei cominciò con altre donne a fare proprio delle operazioni di disturbo delle leggi inglesi, cioè cominciò, per esempio, era proibito loro andare a vendere le loro cose, i loro cotoni in una certa area dell'India. Bene, lei ci andava con le donne della sua comunità, del movimento, andavano e nessuno aveva il coraggio di arrestarle, nessuno aveva il coraggio di multarle, e quindi loro cominciarono la disobbedienza civile, cominciarono a fare quello che era assurdo che gli venisse impedito. Erano proprio nella stessa identica situazione nostra oggi, no? Cioè le leggi proibivano loro semplicemente di di commerciare, di produrre, di poter vivere dignitosamente, perché le leggi erano dalla parte di quelli che erano fatte da quelli che volevano rubare la loro ricchezza per portarsela via, che è quello che fa il colonialismo sempre. L'apparizione di queste donne coraggiose, qualcuno qui ha dichiarato in un reportage, agisce semplicemente come un incantesimo e gli uomini obbediscono, e nessuno aveva il coraggio di arrestarle, queste donne. Quindi Casturba si mette comincia proprio la sua militanza a convincere per esempio i minatori a scioperare quando erano ancora in Sudafrica, diventa una vera e propria, tra virgolette, soldatessa. Tornano in India e Casturba è sempre più coinvolta, è sempre più vicina alla lotta di Mohandas per l'indipendenza dell'India, questa volta nella loro terra. Assiste il marito in molti modi, lo sostituisce quando lui è in carcere, parla al posto suo quando lui è in carcere o quando fa i digiuni, lei c'è sempre, è sempre a suo fianco, lo sostiene, e lui pare che addirittura lui, prima di pronunciare qualunque nuova idea, qualunque nuovo tipo di manovra, ne parlasse con lei. Se lei era convinta, allora lui lo faceva. Se lui non riusciva a convincere Casturba, lasciava da parte. Doveva essere una donna, io sento che doveva avere veramente un grandissimo buon senso, una grandissima capacità di visione, oltretutto se lui era mosso da un ideale, lei era molto più piantata con i piedi per terra, ed era in grado di vedere concretamente quello che stava succedendo al di là dell'ideale. Era come posso dire, lei era le radici del movimento, a proposito di radici, no? E quindi lei va a lavorare, adotta tutte le cause del marito, facendo appello alle donne indiane, convincendo le donne indiane ad unirsi alla causa. Se lui diventa il capo degli indiani, lei diventa la capa delle indiane, le donne la seguono. Lei va a lavorare con le mogli e i figli dei contadini, viene coinvolta nelle campagne di risanamento, nei distretti, nelle comunità, si dà da fare dal punto di vista concreto ad aiutare questa gente per poter stare meglio, per poter recuperare quello che l'Inghilterra gli stava togliendo. E cerca di raggiungere le donne indiane con un messaggio speciale, che è quello di insegnare loro ad essere autosufficienti, ossia, ecco quello che vi dicevo prima, che imparassero a filare e a tessere il loro cotone, i loro tessuti, in maniera da dare un grosso colpo alle importazioni, da far loro perdere denaro, no? Un po' come se noi oggi dicessimo: non compriamo più le sigarette, per esempio, smettiamo di comprare le sigarette, o smettiamo di comprare tutti quei beni sui quali lo Stato ha enormi ricarichi. E quindi è lì che comincia l'idea di filarsi e tessersi il loro cotone, che poi anche lui imparerà, Mohandas imparerà anche lui a filare e a tessere, e lo farà come forma di meditazione attiva e come forma di dharma fino alla fine dei suoi giorni. Questo tutto ve l'ho già detto. Ecco, la marcia del sale, la famosa marcia del sale, e gli era stata proibita dal governo, perché il governo metteva tasse sul sale, quindi guadagnava molto sulla vendita del sale. Sapete che la marcia del sale fu quando lui, Mohandas, con tutto il suo seguito, andò direttamente al mare a prendersi il sale per produrselo, per averlo senza dover pagare le tasse. E in quella marcia del sale furono tantissimi gli uomini arrestati. Chi portò avanti il movimento mentre tutti questi uomini erano in carcere, incluso Mohandas, furono le donne con Casturba in testa. Quindi Casturba continua a portare avanti la campagna di disobbedienza civile mentre gli uomini, incluso Mohandas, erano in carcere e lasciando la gestione dell'ashram ad altri, si spostava per il paese esortando le indiane e gli indiani, per esempio, a boicottare la vendita di alcolici, a fare picchettaggio, ecco, picchettaggio addirittura davanti ai negozi di liquori, perché questo provocava delle grosse perdite in quanto gli inglesi guadagnavano sulle tasse di tutti questi beni. Viene arrestata anche lei, fu la prima incarcerazione, ma non l'ultima. Quando uscì, riprese i suoi doveri, riprese a parlare al posto del marito, rappresentò il marito che era in carcere in una conferenza anti-intoccabilità a Madras, cioè una conferenza nella quale si esortava a smettere di considerare gli intoccabili come una casta da tenere lontana, e era il loro modo di intendere la fratellanza e la sorellanza, cioè siamo tutti uguali, abbiamo tutti quanti gli stessi diritti e gli stessi doveri. In quella occasione non poté andare Mohandas perché era in carcere, andò lei a parlare di fronte alla folla. E di lì partì per fare un giro di tutta la regione di Madras parlando a favore degli intoccabili. E fu reincarcerata di nuovo. E a un certo punto gli inglesi cominciarono a considerarla una minaccia tanto quanto Gandhi, a causa proprio del fatto che lei riusciva a coinvolgere le donne, riusciva a motivarle. Ecco, tenete sempre presente anche il quadro che vi ho dato all'inizio, cioè lei vedeva anche tutto, secondo me, tutto quello che, perché sono in contatto con lei in questo momento, tutto quello che si andava preparando dietro. Il doppio scopo, il doppio senso degli inglesi, no? Questa doppia manovra di far credere a loro che gli davano la libertà, mentre in realtà era solo un dolcetto quello che gli davano, ma tenevano ben strette le redini del dominio economico che di fatto ancora oggi c'è, perché l'India di oggi è diventata una potenza praticamente economica all'occidentale, con computer, non è assolutamente quello che aveva in mente Gandhi, e lei questo lo vedeva prima di lui. A un certo punto viene coinvolta in una protesta contro un principe locale che arriva le donne, le portava nella sua residenza, abusava di loro e poi le cacciava. Lei in prima linea nella lotta, nella militanza, nel denunciare questo principe, nel salvare queste donne, finisce di nuovo arrestata, di nuovo in carcere. Disobbedienza civile contro la guerra, cioè a un certo punto gli inglesi entrano in guerra con non mi ricordo chi e pretendono che gli indiani combattano al loro fianco essendo colonia contro il Giappone, ecco, e ovviamente Gandhi e company non accettano assolutamente questo, dicono beh, se noi dobbiamo combattere accanto a voi bisogna che voi ci liberiate, usano questo strumento un po' come ricatto, questo movimento si chiama Quit India, cioè abbandonate l'India, e lì comincia il primo nucleo dell'operazione che poi diventerà ufficialmente la liberazione dell'India. Pensate semplicemente che fu mandato l'ultimo viceré, c'era il viceré in India, no? Che era il rappresentante della regina Vittoria, l'ultimo viceré che fu mandato in India, Lord Mountbatten, era quello che doveva preparare l'India all'indipendenza. Giustamente Gandhi diceva basta che ve ne andiate, noi siamo perfettamente in grado di gestircele, prima che voi arrivaste noi sapevamo come fare, come mangiare, come, quindi non c'è bisogno che voi ci accompagnate all'indipendenza. Ma alla luce di quello che vi ho raccontato prima capite perché l'Inghilterra non se ne andò subito, ma ci fu un periodo cosiddetto di transizione che era quello che serviva all'Inghilterra per far sì che Jinnah creasse il Pakistan e che quindi la liberazione dell'India fosse assolutamente solo di facciata, fosse solo una cosa formale ma non sostanziale. Non so se vi è chiara adesso questa manovra. Quindi ci fu un ennesimo arresto al grosso, questa volta furono imprigionati sia Mohandas che Kasturba, e fu lì che Kasturba, che era già molto provata, aveva 74 anni, era già molto provata fisicamente, dopo 6 mesi mi pare, lasciò il corpo in carcere e lui, Mohandas, questa è una cosa che viene riportata, rimase accanto alla pira di Kasturba, perché la tradizione loro è quella di bruciare i cadaveri. Lui rimase fino a che era scomparso, fino a che scomparve tutto, fino a che fu bruciato tutto, non rimase più nulla della pira di lei. Disse a un certo punto, ammise che lei era stata la sua forza e che senza Kasturba, che visse e lottò accanto a lui per 60 anni, nulla sarebbe mai stato più come prima. Ecco, quello che successe poi a Mohandas a noi in questo momento non interessa, anche perché è storia, comunque lo sapete, no? Quindi l'India viene ufficialmente viene liberata, dopodiché lui viene ammazzato, sapete che gli fu sparato da un fanatico, ma sappiamo anche che tutte le volte che questo succede dietro ci sono ben altre forze, perché è la stessa cosa che ci hanno rifilato per John Lennon, per Kennedy, per tanti attivisti per la pace, no? Che a un certo punto vengono ammazzati da dei fanatici, non si sa di cosa, mentre in realtà si scopre che dietro c'era la CIA o c'erano tutti i movimenti che invece con la guerra si arricchiscono. Ecco. Sta di fatto che Kasturba, 74 anni, se n'è andata da una cella di carcere e dopo aver dedicato praticamente tutta la sua vita a lottare e ad essere una leader, lei che nacque analfabeta, che all'inizio non voleva neanche imparare a leggere e a scrivere, che lo dovette fare quasi suo malgrado, quante cose dovete imparare, come riuscì a tirare fuori da sé la forza, l'energia, la motivazione, la visione, come riuscì a far sua la visione del marito e come riuscì ad essere la sua compagna, non sua moglie, perché altrimenti avrebbe dovuto stare dietro ed obbedire. Lei divenne la sua compagna di militanza, tant'è vero che dormivano in letti separati, quindi non avevano neanche più un rapporto di marito e moglie, erano diventati proprio due compagni di militanza. E se pensate che stiamo parlando dell'Ottocento in India, e una delle religioni, l'induismo, in cui le donne sono più vessate, perché è la religione, non dimentichiamoci, che brucia le vedove, quindi pensate alla forza che ha tirato fuori sto donnino, a come è riuscita veramente a stravolgere tutte le regole, tutti i piani che la sua casta e la sua cultura prevedevano per le donne. È veramente un modello, un'antenata immensa da cui prendere ispirazione sempre, ma in questo momento in particolare.